giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al via Udine il processo a carico del sindaco di Preone è rinviato a giudizio per omicidio colposo per la morte di un volontario durante un intervento nel crollo di un albero. In aula la solidarietà di oltre 20 primi cittadini della montagna. Giornata da bollino rosso fin dal mattino per il traffico in autostrada. A fuoco un furgone lungo l'autostrada A34 tra Villesse e Gradisca di Sonzo. L'autista è riuscito a parcheggiare il veicolo in una zona tranquilla e mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Carreggiata chiusa. Un altro incendio ha riguardato un furgone che transitava sull'autostrada Villesse-Gorizia, risultato lunghe code e rallentamenti. A Trieste manifestazione di protesta in difesa della sanità pubblica in un'occasione per manifestare le preoccupazioni riguardanti le politiche di privatizzazione e tagli al finanziamento del comparto. I temi del lavoro resi noti poco fa i dati di una ricerca riguardante il commercio nel settore privato a Pordenone. Lo storico Raul Pupo commenta la scomparsa di Giuseppe Parlato tra i maggiori studiosi italiani della destra postbellica che per anni si è impegnato nella memoria e sensibilizzazione per il confine orientale. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 3 giugno. In apertura la cronaca giudiziaria perché ha preso il via in tribunale Udine ed è subito stato rinviato il processo nei confronti del sindaco di Preone, Andrea Martinis, rinviato a giudizio per omicidio colposo insieme al coordinatore del gruppo comunale di protezione civile Renato Valent per disattese normative sui datori di lavoro in seguito alla morte di un volontario avvenuta durante un intervento per il crollo di un albero. In aula anche la solidarietà di oltre 20 primi cittadini della montagna. Ci sono i sindaci di tutta la Carnia, della Val Canale, Canal del Ferro, della zona collinare. È solo un'udienza tecnica, la prima dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Preone, Andrea Martinis, e del coordinatore dei volontari della protezione civile, Renato Valent. Eppure l'aula di tribunale di Udine è gremita di fasce tricolori. Primi cittadini presenti per testimoniare la vicinanza e due imputati per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, travolto da un faggio il 29 luglio 2023. Stava verificando l'accessibilità alle cascate dell'Arzino dopo alcuni fortunali per il transito di una gita scolastica il giorno successivo. Martinis e Valent sono accusati di omicidio colposo per non aver valutato i rischi dell'attività e non aver fornito attrezzature e formazione adeguata alla stregua di datori di lavoro. Hermes De Crignis, presidente della comunità montana della Carnia. Dobbiamo far capire anche che tutti i sindaci sono messi in difficoltà. Lui è la punta dell'iceberg, ma per noi diventa veramente un problema pensare a come i nostri giovani e la nostra gente può approcciarsi ad un servizio come quello che stiamo facendo noi come sindaci, che tutto facciamo meno che dare in questo caso del lavoro, ma diamo dei servizi per la sussistenza e per portare avanti quella che è tutta la realtà della nostra zona. Depositata dal PM Gondolo una mole di documenti che le difese avranno tempo di analizzare. Il giudice Faleschini Barnaba ha fissato la prossima udienza il 24 giugno. Hanno preferito non rilasciare dichiarazioni la vedova De Paoli e il sindaco di Preone. Gli avvocati si aspettano un processo complesso e delicato. Alessandro Franco, avvocato difensore. Il primo obiettivo sarà ricostruire e comprendere esattamente che cosa è accaduto e sulla base poi di questo comprendere e ragionare su quelli che sono gli assetti della protezione civile a livello regionale e nazionale. Andrea Ghidina, avvocato difensore. Noi riteniamo, abbiamo sempre ritenuto che la figura del sindaco responsabile comunale di protezione civile non sia da assimilare al datore di lavoro e quindi non si applicano tutta una serie di norme. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi giornata da bollino rosso in autostrada A4 fin dal mattino per il traffico, soprattutto a causa dell'arrivo di mezzi commerciali dal centro est Europa, dopo i due giorni di divieto alla circolazione di domenica scorsa e l'osservanza della festa della Repubblica Italiana. A complicare la situazione sono stati però due fatti. Il primo verso le 5 di questa mattina con l'incendio di un mezzo pesante in direzione Venezia. L'auto articolato ha preso fuoco all'uscita del casello di San Stino in Veneto. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e l'arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino con un'uscita obbligatoria a Portogruaro e il reindirizzamento del traffico lungo il bypass A28-A27 per chi proveniva veniva da Trieste, autostrada Alto Adriatico, ha informato che l'uscita allo svincolo di San Sino di Livenza per chi proviene da Udine e da Trieste resterà chiuso fino alle 5 di domani, mercoledì 4 giugno, per consentire lavori di ripavimentazione. Il secondo incidente è avvenuto verso le 7.30, anche in questo caso un incendio che ha riguardato un furgone che transitava sull'autostrada A34 Villesse Gorizia nel tratto tra Gradisca e Villesse in direzione Villesse, con conseguenti code per chi proveniva da Gorizia. In entrambi i casi non ci sono state conseguenze per i conducenti dei due mezzi, che sono riusciti a uscire dai rispettivi abitacoli prima che divampasse l'incendio. La situazione attuale sulla rete gestita da Autostrade Alto Adriatico registra sull'autostrada A4 rallentamenti tra Redipuglia e San Stino di Livenza in direzione Venezia, e sulla A34 ci sono code tra Villesse e il bivio tra la A34 e la A4. Sono le 12.36, passiamo al meteo. Il cielo è da variabile a nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi, a Gorizia 25,5, Udine 23 gradi e mezzo, a Pordenone 23. In area montana a Tolmezzo 19 gradi e 5 decimi, Tarvisio 18, Forni di Sopra 17 gradi, Piancavallo 16, Sappada 13, in quota sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncola 9 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 24 a grado, 23 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Oggi su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana, nuvoloso con rovesci o temporali nel pomeriggio che potrebbero coinvolgere anche alcune zone dell'alta pianura o della pedemontana. Soffierà vento moderato da sud o sud-ovest su costa e pianura. Per domani si prevede cielo in prevalenza nuvoloso sulle Alpi, variabile tra prealpi e pianura, poco nuvoloso verso la costa, soffierà vento dal mare moderato su pianura e costa, da sud moderato in quota sulla zona montana. Passiamo alla protesta del coordinamento salute Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato con la CGIL una manifestazione a Trieste, partita da Largo Barriera e conclusa sotto il Consiglio regionale, che ha coinvolto circa 3.000 persone in difesa della sanità pubblica. È stata anche l'occasione per manifestare preoccupazioni riguardo alle politiche di privatizzazione e i tagli al finanziamento del comparto. Dipenderà tutto dall'incontro di dopodomani. La CGIL smentisce la notizia circolata di non voler firmare il verbale di confronto per ripartire i 40 milioni straordinari destinati alla sanità, nella speranza di limitare le dimissioni volontarie e accrescere l'attrattività di alcune mansioni in aree ospedaliere particolarmente critiche, come l'emergenza urgenza. La riunione tra aziende sanitarie, regione e sindacati è prevista il 5 giugno. L'eventuale no della funzione pubblica della CGIL non pregiudicherebbe l'accordo. Secondo Rietto Olivo, segretario del sindacato in regione, la partita è aperta. Riconosciamo il lavoro fatto. I 27 milioni che la regione mette, oltre i 13 dello Stato, non sono pochi, anche se tardivi. Li riteniamo un aiuto e non una soluzione. Ma la nostra perplessità è sulla differenziazione del premio in base ai ruoli, ci dice. Il riferimento è alle somme diverse che percepirebbe il personale sanitario rispetto agli OS. La fatica è la stessa, conclude Olivo ricordando la differenza salariale, punto su cui l'assessore Riccardo Riccardi non è d'accordo. Intanto il comitato di coordinamento salute FVG a Udine continua a chiedere centralità per la salute pubblica, rimanendo contraria a iniziative di privatizzazione. Guglielmo Pizzalis, comitato coordinamento salute pubblica Udine. In questa sanità ci sono, diciamolo subito, cose che funzionano e cose che non funzionano. Quello che è più difficile è capire la prospettiva complessiva di fronte ad alcuni problemi che si sono negli anni aggravati. Le difficoltà sono molte per la carenza del personale, per la carenza di medici, soprattutto per la carenza di infermieri, e per anche alcuni interventi spot che sono slegati uno dall'altro e non riescono a ricostruire le fila di un progetto, di un percorso accompagnato. Udine, Andrea Sauli, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le segreterie regionali del Sindacato Lavoratori della Comunicazione, CGIL e UIL Poste, hanno aderito allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata di oggi. Nel contempo è stato proclamato lo sciopero di tutte le prestazioni straordinarie da oggi fino al 2 luglio. I sindacati hanno indicato i motivi dell'astensione del lavoro in scelte aziendali che, è detto in una nota, continuano a peggiorare le condizioni lavorative, a colpire la dignità professionale e a ridurre i servizi per i cittadini. È iniziato in modo ufficiale il percorso che nelle intenzioni condurrà una grande multiservizi regionale che include acqua, rifiuti e anche l'energia. È stato infatti firmato nella sede del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale CAFC un protocollo d'intesa con NET AET 2000 Isontina Ambiente per avviare un'analisi tecnico-industriale finalizzata alla costituzione di una multiservizi nel settore idrico e dei rifiuti. Il documento arriva a ridosso del completamento della fusione tra Kafka e la Pordenonese Idrogea. A breve anche la parte rifiuti di Pordenone, Gea, dovrebbe aggregarsi a questo processo di integrazione secondo le volontà della nuova giunta. E ora i temi del lavoro sono stati resi noti poco fa i dati di una ricerca riguardante il commercio nel settore privato a Pordenone. Una situazione sostanzialmente stabile per quanto riguarda l'occupazione, ma con segnali di crescita del disagio sociale e dell'incidenza del costo della vita sui bilanci familiari. E questo è il quadro del settore terziario riferito al secondo semestre 2024 e alle attese per la seconda metà dell'anno in corso, tracciato dall'Osservatorio Lavoro FVG dell'IRES nel suo ultimo rapporto. Dati da cui emerge che quasi un terzo degli impiegati nel terziario, il 31,6%, afferma di far quadrare appena il proprio bilancio, mentre il 13% è costretto a prelevare dai propri risparmi e il 5,6% deve fare debiti. Tra le ragioni del peggioramento delle finanze, l'aumento dei prezzi di beni e servizi, l'energia su tutti e delle spese legate alla casa. Più in generale, 6 lavoratori su 10 hanno segnalato negli ultimi 6 mesi del 2024 una situazione economica familiare invariata e anche per il prossimo semestre il 45% pensa che non ci saranno variazioni significative. Peraltro, nell'ultimo biennio il 37,5% dei lavoratori ha pensato a cambiare lavoro, in particolare per cercare stipendi migliori o una maggiore valorizzazione professionale. Dal lato delle imprese, la gran parte di quelle del terziario, l'88,5%, prevede un quadro occupazionale stazionario. Da qui a fine anno il 29,2% è in programma di cercare nuovo personale e solo l'8,5% ha intenzione di aumentare il numero di addetti, anche perché alla fine del 2024 ben il 48% delle aziende ha incontrato abbastanza difficoltà nel reperire dipendenti, soprattutto per la mancanza di competenze e la poca attrattività delle mansioni. Per agevolare la ricerca di lavoratori, il provvedimento più sentito, lo dicono i 2/3 delle imprese, è la riduzione del costo del lavoro. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. La Camera di Commercio Pordenone Udine, in collaborazione con il suo Comitato per l'Imprenditoria Femminile, ha promosso un incontro per accompagnare le imprese del territorio nel percorso verso la certificazione della parità di genere. La certificazione, introdotta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta oggi sia un riconoscimento dell'impegno verso l'uguaglianza, sia un fattore premiante che consente di accedere a incentivi fiscali e punteggi premianti nei bandi pubblici, oltre a rafforzare la propria reputazione e attrattività. Appuntamento nella sede camerale di Udine, in Piazza Venerio, alle 17. Il 10% degli alloggi di edilizia popolare possono essere riservati alle forze dell'ordine. La nuova legge promossa dalla maggioranza permetterà di inserire anche in deroga eventuali graduatorie lavoratori dell'arma, dei carabinieri, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e non solo. Obiettivo: essere riconoscenti verso quei lavoratori, ma non solo. Sentiamo. Aumentare la sicurezza percepita all'interno dei condomini Atter di Trieste, inserendo tra i condomini anche lavoratori delle forze dell'ordine. La legge approvata lo scorso mese dal Consiglio regionale, promossa da Fratelli d'Italia, si fa sempre più concreta e vale a livello regionale, ma per la provincia di Trieste diventa un tema importante, visto che è il più vasto patrimonio di edilizia popolare in regione e il contesto sociale è più complesso. Quindi il 10% degli alloggi sarà destinato a forze di polizia con una graduatoria speciale. Siamo con Daniele Mosetti, presidente di Atter Trieste. Perché dice questo andrà bene ai residenti stessi? Andrà bene nella misura in cui questo strumento, questo nuovo dispositivo che ci consegna oggi la regione, tenderà a mitigare situazioni di rischio e problemi all'interno dei complessi. Quindi riteniamo che questo nuovo strumento funzioni meglio sui complessi come potrebbero essere appunto quelli di Valmaura, via Grego, stabili di via Cumano, piuttosto che a Melara o Giarizzole. Aumenta la sicurezza percepita, ma soprattutto avrà l'obiettivo di risolvere criticità all'interno dei grandi complessi ATER. 15.000 immobili, però ci sono 2.000 appartamenti sfitti, spesso anche per mancata manutenzione. Per mancata manutenzione, ma io ci tengo a precisare che soprattutto per la velocità con la quale l'azienda casa Giuliana va ad assorbire appartamenti di risulta, o meglio persone che vengono a mancare. A 6 mesi dal nuovo consiglio di amministrazione l'azienda ha potenziato l'area manutenzione leggera dotando di 2 nuove risorse che attraverso competenze tecniche e amministrative andranno a potenziare, elevando il trend che era quello della consegna di 200-220 alloggi all'anno a 250 quest'anno e il prossimo a 300, proprio perché si andrà a prendere dal contenitore appunto degli alloggi sfitti. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora dei referendum abrogativi dell'8-9 giugno, 5 i quesiti di cui 4 in materia di lavoro e 1 sulla cittadinanza. Nel servizio del collega Livio Coppola si parla del quesito referendario numero 2, quello della scheda arancione, che riguarda i licenziamenti nelle piccole imprese e la relativa indennità. Il secondo quesito referendario con la scheda di colore arancione riguarda la normativa sui licenziamenti illegittimi nelle piccole aziende. Dal 2015 la legge prevede che i lavoratori licenziati senza giusta causa dalle imprese con meno di 15 dipendenti possano beneficiare nella maggior parte dei casi di un indennizzo economico pari ad una mensilità per ogni anno di servizio. Tale indennizzo non può mai essere inferiore a 3 mensilità, ma al tempo stesso non può superare le 6 mensilità. In caso di vittoria del sì, viene eliminato il tetto massimo dell'indennizzo. Allo stesso tempo viene demandata al giudice del lavoro la possibilità di determinare l'importo. Con la vittoria del no, resta in vigore l'attuale normativa con i limiti minimi e massimi degli indennizzi. Solo nei casi eccezionali di licenziamenti ritenuti dal tribunale discriminatori si prevede ancora la reimmissione in servizio del lavoratore. Va ricordato che il risultato del referendum è valido solo se c'è la partecipazione almeno del 50% più uno degli aventi diritto al voto. A 6 anni dal documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune sottoscritto ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dall'imam Hadi Al-Zar, l'Università di Trieste organizza alle 17.30 una tavola rotonda aperta alla cittadinanza con il vescovo di Trieste Enrico Trevisi e il presidente della comunità islamica locale Akram Omar. Non sono molti gli studiosi che, non appartenendo a quest'area geografica, si sono ugualmente interessati al confine orientale, oltretutto in modo così appassionato. Ci lascia un grande vuoto. Così lo storico Raul Pupo commenta la scomparsa di Giuseppe Parlato, tra i maggiori studiosi italiani della destra post-bellica, che per anni si è impegnato nella memoria e sensibilizzazione del confine orientale. Professore Raul Pupo, la scomparsa di Giuseppe Parlato, siete amici da 30 anni, si ricorda in che occasione vi siete conosciuti? Assolutamente sì, quando il Comune di Trieste ha deciso di allestire il centro visite della Foiba di Basovizza e ha chiamato alcuni storici, fra cui Don Parlato, Spazzali, me, e abbiamo collaborato ad un'impresa non facilissima, delicata, però è stato facile, perché avevamo formazioni molto diverse, però Parlato era una persona di grande garbo, di grande gentilezza e di grande disponibilità a mettere in gioco le proprie competenze, ascoltare quelle degli altri. Mi assicuro che è una cosa rarissima nel mondo accademico. Qual è l'eredità di Parlato? Temo che ci lasci un grande vuoto. Non sono molti gli studiosi che lontano dall'area si siano interessati a questa storia, ma non solo interessati, lui si è lasciato coinvolgere e quindi non soltanto a livello di studi, ma poi a livello di divulgazione, di didattica. Si è speso moltissimo in questi anni, quindi ci lascia un grande vuoto. Il fatto di non essere di questo territorio, di non essere di origine istriana, fa la differenza secondo lei? Sì, fa la differenza nel bene e nel male. Chi è originario di quest'area ha una sensibilità, una mentalità, potremmo dire, assolutamente particolare, difficilmente condivisibile. Chi però sta di fuori ha uno sguardo esterno che qualche volta è molto utile. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. In occasione della Festa della Repubblica è stato organizzato l'evento Il futuro nelle tue mani, dedicato ai neomaggiorenni nati negli anni 2006-2007, a cui verrà consegnata la carta costituzionale in un gesto simbolico che sancisce l'ingresso nella cittadinanza attiva, con i diritti e doveri che comporta, e segna un'importante tappa nel percorso di crescita e di responsabilità. Interverrà Andrea Maggi, docente di lettere e volto del docu-reality Il Collegio. Appuntamento a Remanzacco, all'Arena, alle 18.30. Fu la Repubblica Partigiana più estesa d'Italia, la Repubblica Libera della Carnia. 3 settimane di vita prima di una feroce repressione che anticiparono nei valori e nell'organizzazione l'Italia democratica e repubblicana del dopoguerra. Ne abbiamo parlato questa mattina nel corso di Buongiorno Regione. Nell'estate del 1944, mentre la guerra infuriava, ad Ampezzo fu fondata la Repubblica Libera della Carnia, una delle esperienze più alte della resistenza all'occupazione nazifascista, che fu anche un laboratorio di democrazia. Raggruppava una quarantina di comuni, 90.000 abitanti, sotto un comando condiviso che anticipava il modello dei primi governi nati dopo la liberazione. Andrea Zannini, docente di storia dell'Europa all'Università di Udine. Beh, vi erano sostanzialmente le due grandi formazioni partigiane, quella della Garibaldi e quella dell'Osoppo, e dietro a loro vi era il CLN, che era già giunto al governo nei 5 partiti istituzionali, la DC, il PC, il Partito Socialista, il Partito d'Azione e il Partito Liberale. Si trattò di una vera repubblica, non solo di una zona libera. Fu separato il controllo militare dal governo politico, che fu nelle mani di una giunta di governo che si appoggiava peraltro a dei comitati di liberazione di vallata. Fondata sui valori che sarebbero stati adottati poi da padri costituenti, la Repubblica nella sua breve esistenza delineò leggi per un'equa tassazione, per la scuola pubblica, per l'abolizione della pena di morte. Fu una delle occasioni in cui le donne poterono votare. Votarono i capi famiglia. Molti capi famiglia erano assenti, erano o prigionieri o su in montagna a combattere, molti erano anche morti. E quindi capi famiglia furono in molti casi le donne. La Repubblica fu distrutta da una feroce repressione, ma lasciò un'importante eredità democratica nella popolazione, che di lì a poco avrebbe votato per il referendum istituzionale e per la Costituente, il 2 giugno del 46. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, atletica di ottimo livello ieri nel meeting di San Vito al Tagliamento. Migliorati i record della competizione nei 400 metri maschili e femminili, nel lancio del disco nei 100 metri maschili. In quest'ultima gara in particolare di valore assoluto il risultato di Elvis Afrifa, olandese, che ha vinto in 10 secondi e 30 centesimi battendo il connazionale Ekpo e il britannico Gemili, ex campione europeo. Nei 400 vittoria dell'olandese Blake, che ha corso in meno di 46 secondi. Nella gara femminile ha vinto Salma Lelal in 53 secondi e 37 centesimi. Nel lancio del disco protagonista assoluto il sudafricano Victor Hogan, che ha scagliato l'attrezzo a 61 metri e 57 centimetri, precedendo il friulano Enrico Saccomano, arrivato a 60,52. Risultati che spiccano in una manifestazione che ha visto comunque un'ottima partecipazione a tutti i livelli, dalle gare giovanili a quelle che vedevano coinvolti gli atleti paralimpici. Passiamo al ciclismo. Davide Frigo ha vinto il Giro del Friuli Venezia Giulia, corsa a tappe di ciclismo riservata agli juniores, cioè atleti tra i 18 e i 19 anni, organizzato dalla società ciclistica Fontana Fredda. Finale drammatico dell'ultima tappa, che è finita Pordenone, è stata vinta dal lombardo Matteo Piva, che ha approfittato di un clamoroso errore all'ultima curva del compagno di fuga, che ha sbagliato traiettoria finendo fuori strada. Frigo è arrivato con il gruppo, mantenendo così il vantaggio che aveva guadagnato il giorno prima nella tappa conclusa Montereale Valcellina. Ancora più giovani gli atleti impegnati in un'altra gara di ciclismo disputata ieri, il trofeo Classic Iulium Carnicum, riservato agli allievi, cioè agli atleti dai 15 e 16 anni. Una gara di quasi 70 km in Carnia, su un percorso tra Zuglio e Tolmezzo, da ripetere 4 volte, con pendenze fino al 10%. 85 corridori al via. Ha vinto Sebastiano D'Aiuto della squadra di Manzano, che ha staccato di 1 minuto e mezzo lo sloveno Mai Bohak, media del vincitore oltre 42 km all'ora. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beerz, che vi parla. Collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Mauro Coloni. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR, come sempre alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.